dammi i tuoi occhi per vedere dove vai. È un sol gesto che ti chiedo, prova a farmelo se puoi. Sono solo e disperato in questa melma di città, dove muoiono le rondini, dove crepa chi vuole cambiare. Se la tua semplicità è una grossa sicurezza, accarezzerò il tuo mondo, lo farò con gentilezza. Se il linguaggio che tu usi è migliore del mio, io onorerò a chi è degno il rispetto che ti porto io. Se il linguaggio che tu usi è migliore del mio, io onorerò a chi è degno il rispetto che ti porto io. Restami la casa dove hai lasciato i tuoi ricordi, le tue foto, i tuoi blue jeans, i tuoi cani ed i tuoi soldi. Il tuo cuore leggendario, grande, grande e solitario. I tuoi film illuminati dalla polvere macchiati. Se la tua semplicità è una grossa sicurezza, accarezzerò il tuo mondo, io lo farò con gentilezza. Se il linguaggio che tu usi è migliore del mio, io onorerò a chi è degno il rispetto che ti porto io. Se il linguaggio che tu usi è migliore del mio, io onorerò a chi è degno il rispetto che ti porto io. Prestami i tuoi occhi, fa vedere un po' chi sei, quale rotta su quale strada, quale bivio prenderai. Quanti amori snella luna, quanti treni prenderai. Quanti sogni a notte fonda nel silenzio brucerai. Se la tua semplicità è una grossa sicurezza, accarezzerò il tuo mondo, io lo farò con gentilezza. Se il linguaggio che tu usi è migliore del mio, io onorerò a chi è degno il rispetto che ti porto io.